Bambina, sei solo una squaltrina, ti ho vista pecorina con Herber ballerina. Con quello sguardo impavido ti stende col suo alito il noto Ivo Avido. Ma quale mora, ma quale bionda, noi ci abbiamo macio capatonda. Cento cinque.